Se volete la verità, andate dentro voi stessi, amici, perché quello è l'unico posto dove troverete mai la verità vera. Da noi non potrete ottenere mai la verità. Vi diremo tutto quello che volete sentire mentendo senza vergogna. Noi vi diremo qualsiasi cazzata vogliate sentire. "24 mattino" di Alessandro Milan. Mattino, ascolta su Radio 24, Alino. Well, the press is down, the boss ain't here, he got north for a while. Say that vanity got the best of him, but he sure left here in style. By the way, that's a cute hat, and it smiles so hard to resist. What's a sweetheart like you doing in a dump like this? Le cose sui visti, l'immigrazione, è tutto molto marginale per la Casa Bianca. Sta facendo quello che aveva promesso di fare, giorno per giorno. Trump ha detto che se i tedeschi, i francesi o altri europei vogliono importare musulmani nei loro paesi, questo è il loro diritto. Se il Papa non è d'accordo, questi sono fatti del Papa. Il Papa, il presidente Hollande e il nostro ex presidente Barack Hussein Obama erano tutti d'accordo che l'Islam è una religione di pace. Lui ha preso la posizione opposta ed è stato eletto secondo le regole elettorali americane. Quindi lui considera che lui ha un mandato. Ma un pochino stona Bob Dylan con la voce dell'Outback. Outback che ci spiega che Barack Hussein Obama, notate che lui sempre sottolinea che si chiamava, che si chiama anche Hussein Obama. È un po' stonano, c'è un po' questo contrasto. Vabbè, signori, sono le 6:33 minuti, forza che è febbraio, dai che la primavera è alle porte. Sei con te? Che dire, ci sono cose peggiori, ci sono notizie peggiori. Quindi... Ma che meraviglia! Adesso ho detto che alle porte, siamo al primo febbraio, caro presidente De Luca, adesso per non esageriamo. Furbastro. Come va? Dobbiamo portare avanti questo progetto davvero perché ci siamo, il nostro presidente De Luca che condurrà 24 mattino prima o poi il Parlamento. Ci sono i suoi colleghi che passano la vita a interrompere ogni 10 minuti. No, infatti qua quando ci sarà poi la conduzione di Vincenzino nessuno ti interrompe, presidente, che il microfono è tuo e puoi andare avanti. Sarebbe una goduria. E va bene, ci stiamo lavorando. Sono le 6:34 minuti. Allora, è uno di quei mercoledì in cui è scomparso letteralmente il nostro direttore Pinguino. Il nostro Pinguino. Chi lo sa? Intanto è tornata tra noi la rossa del mercoledì. Basta con la solita radio. Noi la Saluzzi la vogliamo vivere più social. Ecco che con la nuova stagione inizia a casa di Paola. A casa di Paola, buongiorno. Tutti quanti a casa. Paola Saluzzi, tutti quanti a casa di Paola Saluzzi. È una casa grande, per... Diciamo non sufficiente a contenere tutti, però insomma c'è un grande spiazzo davanti, possiamo organizzarci, possiamo insomma portare cioccolata calda, caffè. Sì. Ci mettiamo sotto con gli striscioni. Di questi tempi vedo che vanno molto di moda, Sì, certo, il presidente democraticamente eletto. No, prima di parlare di Trump, parliamo di Alino. Parliamo di Alino. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno. E il buona presidente per tutto il giorno. Democraticamente eletto. Però, democraticamente cara Paola, eletto. Intanto come hai capito, il nostro Luca Dini, non lo so, si sta. Ma il nostro agente a Lavana. Il nostro agente a Lavana. Qui si parla di pinguini, ma secondo me dobbiamo dire il nostro agente a Lavana. Io ormai sono cosa disperato. È come puntare 50 euro sulla ruota di Napoli. Il 15, non lo so, può uscire, ma può anche molto probabilmente non uscire quando punti 50 euro. Va bene, e può succedere, ma può noi succedere. Ci siamo. Parliamo anche per lui. Allora apriamo il Parlamento, forza. Allora, ragazzi, se uno esce per prendere un caffè e gli state sopra così, io vi voglio bene. Ma... Forza, gente, a correre. Senti, noi lo teniamo nella sigla, Renzi, perché non si sa mai. Noi lo teniamo lì nella sigla. Perché stiamo vedendo, stiamo capendo. Nonostante Enrico Mentana rilasci un'intervista al Corriere della Sera in cui lo definisce un bullo, è geneticamente e politicamente parlando un bullo. Così, proprio Enrico Mentana, lui che l'ha intervistato. E questa è la pagella, è la Mentana pagella. Ragazzi, così, un bullo, gli stanno smontando tutti i pezzi di quello che ha fatto. Insomma, ha fatto capire... Tutti i bulloni. Sarebbe una battuta orrenda per la quale multo da sola, ma insomma, staremo a vedere, ma non è un modo così, tanto per dire... Staremo a vedere capiamo, che succede. Capiamo passo dopo passo che cosa stia succedendo. Sicuramente c'è aria di solenne discussione. Sì. Intanto voglio dire, noi qua si discute sulle mosse di D'Alema. Arriva al 10%, al 13%, al 14%, al 15%, ogni giorno c'è una percentuale in più, poi non si capisce bene la scissione, non la scissione, Bersani dice non dico di sì ma dico di no, non dico di no ma non garantisco di sì, è così, è la politica italiana, ma tutto il mondo si interroga su una figura a te cara Paola. Sì, molto. Molto cara. Allora voglio fare... un'analisi, sì, Alessandro, sì. Ha detto Alino, che a noi piace molto di più, ma fa una campagna elettorale, dice farò questo, finita la campagna elettorale fa questo, quindi mettendoci e guardando, provando a guardare la cosa con un braccio di distanza, sta mantenendo la parola data. Appunto. Il problema è questo. Tu dici il problema sta nel manico, sta nella parola data. Il problema è esattamente questo. Però quello tu già lo criticavi all'epoca dicendo non ti piaceva il programma, però appunto tu dici è coerente con il programma, è coerente, sì, con quello che ha detto. A te non piaceva quello che diceva, questo è... Perché non come posso dire, non promuove con 10 e lode il soggetto, perché sì, la politica... è anche l'arte della mediazione, perché se tu vuoi essere presidente di tutti devi capire se essere presidente di tutti quelli che ti hanno eletto, della maggioranza per evidenti motivi, sì, che ti ha eletto, oppure presidente di tutti. Su questo tutti si disegnerà la presidenza di Donald. Guarda, io credo che secondo me c'è tanto anche di propaganda che si utilizza nei suoi confronti contro di lui, perché chiaramente fa delle mosse. Per esempio il fatto che abbia fatto una lista di persone che non possono venire da alcuni paesi sono gli stessi che aveva indicato anche Obama, anzi direbbe Lutwak Barack Hussein Obama. Hussein lo sottolinea 4 volte. Sì. Questo c'è. Però, cara Paola, grande, grande sorpresa, perché noi quando non troviamo gli ospiti, chi chiamiamo? Chiamiamo il nostro... Il contadino di Terni. Chiamiamo... il nostro onorevole che tanto dice chiamatemi alle 6:30 che io non ho... Lo dice lui? Non ho? Bianconi! Bianconi, buongiorno! Buongiorno. Non dorme Bianconi, Maurizio, non dorme mai. Non dorme mai, Bianconi non dorme mai. C'ha già la sua sciarpa. L'hai vista che sciarpe orrende che si mette? Orrende, Paola, si mette delle sciarpe orrende. Sciarpone con i fioroni. Ma è bello ciò che piace. E se ne va alla camera così, non l'hanno mai fermata prima di entrare con quelle sciarpe? Hanno anzi, tutte delle sciarpe. Ah, Ah, dicono che belle, va avanti. Le donne impazziscono. Le hai capito bene. La categoria è un po' ampia, onorevole. Hai capito bene, le donne impazziscono. Le donne impazziscono per quelle sciarpe. Più bella. Mettere il cellulare bene, che va bene che l'abbiamo svegliata, Bianconi, però non si sente sì, tanto bene. Se sapessi dove sono. No, adesso diciamolo, io ho un piccolo sono in clinica. In clinica? No. Perché? No, io pensavo perché? Al bagno, no, come in clinica? No, sono in clinica perché non dormo, appunto, e la mia moglie è tanto preoccupata, e allora ha detto vai a vedere perché non dormo. No, ma che? Ma adesso... Oh, bellina, no, ha ragione. No, ma dai, ma che vuol dire in clinica? Sì, ma in clinica? Ti prendono la sera alle 8. Ti mettono un sacco di fili da morire da ridere e ti piazzano a letto. E quindi noi, cioè lei era in clinica per dormire, scusi, noi l'abbiamo svegliata, abbiamo interrotto il percorso terapeutico. È un farei una telefonata alla signora Bianconi ora per sentire l'ira funesta di questa donna. Cioè, che, esatto, l'ha convinto per andare in clinica, arrivano quei rompicoglioni di Radio 24. Ma è incredibile sta cosa. Abbiamo rovinato un percorso terapeutico sudato e singolare, quantomeno. Ma sua moglie ascolta Radio 24? Cioè no, mia moglie dorme. Ah, dorme, la moglie dorme, giustamente. Pensa di questa cosa, si separa. Si separa. Va bene, noi non glielo diciamo. Paola, sono un po' in imbarazzo, rido, ma sono un po' in imbarazzo. Abbiamo creato un guaio. Diceva, come fai un colpo su un milione a colpire, l'hai fatto. Esatto. Non solo il nostro onorevole Bianconi, che per carità, lei deve, Bianconi, deve pensare che l'assenza di sonno è data dall'aver turbato l'equilibrio sonno-veglia. Esatto. E le diranno tutte cose che sono tutte vere, ma chiamarlo proprio la sera che sta facendo, anzi la mattina. No, ma infatti mi sento... No, mi sembra veramente. Ma cosa deve fare in clinica? Si può, tanto violiamo la privacy. Si chiama, è un controllo che fanno sull'apnea e sul sonno. Sull'apnea e sul sonno. E quindi mettono una serie di terminali e attraverso questi terminali, mentre dormi, vedono che si fa. È come un orto. Poi dopo però, se chiama uno, rovina tutto, insomma, perché... va bene, ma tanto, è da ieri sera che se entra qualche infermiera, qualche dottore, ce lo passi, che così vediamo un po'. Stavamo parlando di Trump, ma le piace Trump? Attenzione, però, dobbiamo fare l'annuncio. Lo sai, Paola, che si è fondato un nuovo partito, Direzione Italia. Direzione Italia, c'è Bianconi. L'hai visto quanti eravamo? Quanti eravate? No. Non l'ho visto i filmati, non ho visto niente. Migliaia? 3.000 persone dentro una sala, tutti... 3.000? Sì, 2.900. Paola, c'è un nuovo partito? Direzione Italia. Sì. Hai preso appunti. No, guarda che si arrabbia tantissimo, poi Bianconi mi manda messaggi, dice non mi aspettavo, insomma prese in giro, ma non sto prendendo in giro, dico solo, ma c'è bisogno di un nuovo partito? Lei dice di sì. Io dico di sì, perché se vuoi fare politica, secondo l'articolo 49 della Costituzione devi fondare un partito, non è che è una mia scelta, è un obbligo. Se c'è un voto nella politica e ti desideri riempirlo, bisogna che tu riempia con un partito. E se noi diciamo che il posto che aveva proprio la libertà e Forza Italia è un posto che è rimasto vuoto, perché Forza Italia oggi come oggi è filo renziana, e noi abbiamo milioni e milioni di persone che non sanno chi votare, io dico che di un posto c'è bisogno. Serve un partito. Tra l'altro, Paola, c'è questa cosa, io un giorno mi sono messo lì e dico, allora Renzi punta al 40%, Salvini al 15%, Bianconi ci ha detto che punta al 15%, sì, D'Alema, se ho capito, al 15%, cioè io al sesto partito, Paola, sono arrivato al 120%, e ho detto che c'era qualcosa, la matematica che non è un'opinione, che c'è qualcosa che non andava. No, quando fai le previsioni tutti il lavoro fa più grosso, si chiede come dentro il guscio, è tanto semplice, però la questione di D'Alema intanto è una questione che sottrae molti molti voti a Renzi, quindi è una cosa che torna. La questione nostra è una questione che dovrebbe sottrarre molti voti al non voto E quindi torno. Ah, e quindi voi li togliete a quelli che si astengono? Beh, questa è un'idea. Comunque tu no, parla, noi parla... cerchiamo di farvi portare al voto quelli che sono rimasti delusi da Forza Italia e da Pura Libertà e che vedono un centro-destra, chiamiamolo così, una posizione conservatrice molto coerente. È disponibile ai fatti. Vediamo un po'. Tu Paola hai capito esattamente cosa si sta muovendo in politica? Cioè tante cose, ma cosa, qual ho è una domanda di riserva? Sì, no, perché voglio dire no, se c'è la domanda di riserva la utilizzo subito. Qualsiasi, anche sul tempo, una situazione meteo. No, nel senso, si sta muovendo un grande caos, che fa bene sempre, perché sai, dove non c'è caos, dove c'è un ordine precostituito e dove appunto si presiede per tutti e solo che i tutti rappresentano solo una parte, si rischia di andare un po', di essere irrigiditi in una posizione che somiglia ad una ad un non corretto uso della democrazia. Guarda che giri che sto facendo. Quindi il caos aiuta, ora soprattutto in casa PD bisognerà capire che cosa vogliano fare, effettivamente vogliono fare, bisogna capire la materia legge elettorale e bisogna capire il lavoro che sta portando avanti il governo, fino a quando porterà avanti la esatto, ieri c'è stata una mossa legislatura. Sulla poi, legge elettorale. Quello che l'onorevole Bianconi sta dicendo è, certo fa parte del, lui dice, se vuoi far politica devi fondare un partito, un po' però onorevole, ce ne sono un po' troppi. Fuori la domanda, no? Cioè, sì, se ne è veramente bisogno, ma non in una forma critica a tutti i costi. Perché ognuno, ma non è vero, ma ce ne sono talmente tanti, la gente non sa chi votare. Ma chi l'ha detto? No, non è vero contesto. Contesto è una coglioneria che dite voi un po' corrompisti. No, l'ho detto io, no, Paola non c'entra. No, coglionerie, no, no, Paola, coglionerie le dico io. Lui, sì, no, sì, sì, lo conosco. Ha detto Mila, no, la sigla, ma cioè, figurati la saluzione. Se te, a un certo momento io quando, allora spiego in 10 secondi, sì, quando a me mi hanno fatto il torto di non rispettare i fatti elettorali e mi hanno lasciato solo come un animale a combattere i tali come le riforme, perché Forza Italia diceva che le riforme di Renzi erano le sue riforme e i tali come la legge ideale. Io l'ho fatto da uomo, da deputato della mia coscienza, ma questo deve avere uno sviluppo politico. Ma ho capito, perché in un nuovo partito ce ne sono tali? Ma no, io contesto il fatto che lei dica che la gente non sa cosa votare. Ci saranno almeno 25 partiti. Se uno non sa cosa votare, è un problema. Però aspetti, devo andare al traffico. Dobbiamo andare al traffico, poi rientriamo. Ecco, è Maurizio Bianconi e Paola Saluzzi. Al mio segnale, scatenate il traffico. Breda, i portoni più belli d'Italia, sicuri e installati in un giorno. Bredaportoni.com vi presenta. Povero Donald, mi sa che non mangia il tacchino. Alino, tutti i problemi del PD, ma chi se ne frega? Dai che se vuole ce la fa, Renzi, arrivare al 40% del Monte di Paschi di Siena, chiaramente. Sì, sì, ci vorrebbe un bel Trump anche in Italia. Forza Trump, vai, vai. Messaggio per la gentilissima e bella roscia Paola Saluzzo. Gli amici sostengono che tu devi diventare Presidente del Consiglio a breve termine. Preparati, preparati. Io mi propongo per andare al governo, sì. Ah, datemi 6 mesi per fare il ministro dell'interno e poi vedete se non riporto un pochino di ordine in giro per l'Italia. Si decide chi entra e chi non entra. Eccolo lì. Allora, no, Presidente del Consiglio Paola Saluzzi, preparati, vestiti, comincia a vestirti che sono le 6.49. Sì, pettinati, mi raccomando, preparati, da casa sei arrivata. E Salvini, ragazzi, Salvini che la zanzara dice che 6 mesi e lui risolve tutto, cioè non sono bastati gli anni di Maroni, quindi ministro dell'interno, arriva Salvini, 6 mesi, decide chi entra e chi esce. Tu, fuori, tu, dentro, lui proprio, in persona, lui, tu. dentro, tu fuori, tu stai come la discoteca. Tu... fa il butta fuori, tu vestito benino, dai, entra su. No, ma adesso io chiedo però sì. A Direzione Italia, onorevole Manco, ma se io vado a fare il presidente del consiglio, sì, ad Alino Milan, sì, che ministero diamo? No, alla comunicazione. Alla comunicazione, cioè quei ministeri inutili, quei sì, ministeri ma... inutili. No, è troppo diretto. No. Dovremmo dargli allo sport, dai, facciamo allo sport. Genere, se c'è la tua assessore allo sport. Quando... ministro, e non ne parliamo più. Ricordiamo ministro. Che Maurizio Bianconi è in clinica in questo momento. È andato in clinica, sì, perché la moglie dice che non dorme e devono analizzare il suo sonno, noi lo abbiamo svegliato. Ecco, sì. Tra l'altro... Ed è una bella soddisfazione, Alino. E senti come ride, è contento di aver rovinato il piano della moglie che l'ha convinto da mesi di andare in clinica. Ma senta, onorevole, ma lei per esempio la sera cosa mangia? E a che ora mangia? Ecco. No, si mette a fare come qui, mangio molto poco. Ma io dormo perché sono... uno che lavora moltissimo e agitatissimo. È agitatissimo. Questo l'avevamo un po' capito, ogni tanto alla camera c'è qualche... Perché io faccio, il deputato lo faccio sul serio, sì, l'uomo di partito lo faccio sul serio e l'avvocato lo faccio sul serio. Allora, deputato sul serio, ricordiamo che giovedì mi ha detto che non andava alla camera perché andavano solo i fancazzisti. Il venerdì, oggi è in clinica. Oggi è in clinica, quindi... Oggi sono in clinica, ma alle 10 sono alla camera io. Quindi abbiamo fatto fallire questo esperimento sul sonno, però. Alle 10 sono alla camera. Dorma alla camera. Ogni tanto mi addormento purtroppo. E c'è Capezzone che mi dà il soffone, no? Insegnami. Cioè, abbiamo... dici che non dorme la notte, e poi figlia questi. Abbiamo risolto. Non si preoccupi, glielo diciamo noi a sua moglie, non si preoccupi. Oggi ha dormito 6 ore alla camera. Tutto a posto. No, dici che fa male tu. Io non l'avevo presa sotto gamba come lei, invece sì, è una cosa abbastanza grave, non lo sapevo mica io. Questa del sonno. No, è una cosa seria. Non dormire. Passa dal cibo, passa sicuramente dall'agitazione. Adesso guarda che sto facendo la terapia. Descrivendo. Però no, davvero. L'idea che noi l'abbiamo svegliata. Va bene. Gli 9 che troviamo per i coglioni. No, cos'è che rompe i coglioni? Dalle 9 che dormono io. È dalle 9 che dorme, è insopportabile questa cosa. Abbiamo fatto dormiva bene. Dormiva talmente tanto che aveva il cellulare acceso sul comodino, ma abbiamo fatto bene. Va bene, con allora senza, io il cellulare ci si va a gabinetto. Sì. Passiamo anche in cucina, onorevole. Cambiamo luogo della casa, sì, via. Ragazzi, per non essere. Io farei Casa Bianconi, altro che Direzione Italia. Casa Bianconi, farei un reality. Casa Bianconi, tra l'altro, mi ha messo una curiosità incredibile di conoscere sua moglie. Mi ha messo una curiosità incredibile di invitare sua moglie. Provi a chiederglielo magari una volta, perché io. No, gli vado tutti a tasca. Secondo me scopriremo delle belle cose. No, però io volevo chiudere. Volevo chiudere questa cosa di Trump, perché volevo capire. La questione è molto seria, in realtà. La verità è che di fronte a un Trump che tuona, c'è un'Europa, cara Paola, che miagola. Questo è il mondo è cambiato da questo punto di vista, perché Trump chiama Putin. L'Europa che fa il ruolo di Trump e la forza che Trump sta mettendo nell'applicazione letterale di tutto ciò che ha promesso potranno essere, se l'Europa saprà accogliere l'opportunità, un grande momento di sveglia, visto che dormivamo parlavamo del sonno. L'Europa, questo è innegabile. L'Europa ora si fa uno scatto. Nessuno lo prosciugge. Mi domando Steve Bannon, non è Trump. Steve Bannon, il consigliere di Trump. Che consigliano, perché da sempre gli imperatori sono anche i loro consiglieri. Ma certo, mica decide. Da sempre tutto i generali Trump, sono anche i loro colonnelli. E insomma. Ti interroghi su chi sia. L'Europa. Sì, Bianconi, l'Europa. Guardi che c'è una grande cosa, diciamo così, Trump non è un fenomeno isolato, c'è un grande ritorno all'internazionismo e un grande abbandono del mondialismo. Succede in America con Trump, in Europa con la May e col Brexit. E infatti è la Cina, è la Cina l'unica che vuole aprirsi. No, libero mercato. Credo, succede con tutti quelli che hanno capito che diciamo così il mondialismo, l'internazionalismo, eccetera, eccetera, ha portato solo degli svantaggi perché hanno perso la guerra con la Cina. E quindi tutti cercano dei rimedi interni perché in effetti l'Occidente è sconfitto da questa guerra. Hanno fatto come pifferi di montagna gli occidentali, sono andati a suonare, invece sono stati suonati. Perché quando ammisero la Cina nella World Trading Organization pensavano di riempirla di prodotti e di farla lavorare poco meglio. Invece la Cina... E l'ambiente ringrazia, l'ambiente è felice, ringrazia e vedremo che cosa ne succederà. A proposito dell'ambiente, chiudo con questa notizia, ma riprenderò la segna stampa proprio con questa. L'apertura della stampa dice che c'è un inquinamento alle stelle in Italia, per cui rischiamo una multa da 1 miliardo di euro dall'Unione Europea. Per favore, Davide... Andassero a rompere i coglioni in India, in Cina, in Asia. L'Unione Europea mica può rompere i coglioni in India, in Cina, è l'Unione Europea. Devono avere il senso delle proporzioni. Ho capito. In questo momento, anche quello che dice la Paola è una cosa che secondo me è culturalmente valida, ma in questo momento non è quella da portare avanti, perché in questo momento c'è una competizione che ne va della fame, della sopravvivenza dell'economia. Ho capito. Andasso a rompere i coglioni là con l'ambiente. Caro Bruxelles, andate a rompere i coglioni a Mumbai invece che venire qui. Questa è la ricetta di Maurizio Bianconi. Torni a dormire almeno 10 minuti. Abbiamo salvato forse il suo ricovero in clinica. La ringrazio insieme a Paola Saluzzi. Ci troviamo a presto. Abbigliamento di Alino. Togone da magistrato, parruccone ricavato da lana da materasso e bilancia due piatti per un'equa lettura dei giornali. 24 mattino. E va bene, alle 7:18 minuti siamo qui, cari ascoltatori, con le vostre sigle al 349-238-6666. Siamo nello spazio della rassegna stampa e dunque leggiamo i giornali. E oggi regaliamo anche gli ultimi 2 biglietti per Statone. Domenica. Perché è partito Giannino che diceva stato ladro? Siamo al delirio. Peter, sei al delirio. Sei in pre-Super Bowl. Questa è la verità. Allora, domenica alle 20:45 siamo al Teatro Manzoni con Leonardo Manera, torna Platone, c'è Giuseppe Cruciani, c'è Mauro Meazza, ormai l'avete capito. E oggi gli ultimi 2 biglietti. Ieri hanno vinto 2 biglietti Anna da Cinisello Balsamo col titolo I plurigettonati. Erano i consiglieri di Catania che erano ubiqui per il gettone. Anna, complimenti per noi, la nostra la vittoria è decisa qui, è insindacabile giudizio. E poi Mattia da Milano, rubiquità. Evviva! Ci conosceremo al Manzoni. Forza Peter, andiamo a leggere i giornali. Non c'è niente di più divertente che commentare i giornali, ragazzi. È mercoledì 1 febbraio con alcuni titoli. L'apertura del Sole 24 Ore, effetto Trump, balzo dell'euro. Per il Corriere della Sera, euro scontro Trump-Merkel. Dunque l'attualità internazionale. Si arriva invece all'Italia con Repubblica, strage di Viareggio, 7 anni a Moretti, proteste. E questa è l'apertura anche del Fatto Quotidiano. Moretti, 7 anni per 33 morti, ma il governo se ne infischia. Titolo di prima pagina. Ne vedremo altri, ma voglio subito partire proprio da questa notizia, no? L'abbiamo sentito, la condanna in primo grado. Le condanne in primo grado, la sentenza per le 32 vittime della strage di Viareggio nel 2009. Leggo da Repubblica, pagina 2, Franca Selvatici. 23 condannati, pene comprese tra i 9,5 e i 6 anni. Tra i condannati Mauro Moretti, che è attuale amministratore delegato di Leonardo Finmeccanica, ex amministratore delegato di Ferrovie dello Stato, anche se è stato ritenuto responsabile per il periodo in cui è stato amministratore di Rete Ferroviaria Italiana. È stato condannato a 7 anni invece dei 16 richiesti dall'accusa. 10 gli imputati assolti. In tutto sono stati inflitti 168 anni di reclusione contro i 260 chiesti dalla procura. Ma la sentenza pronunciata ieri al Tribunale di Lucca è molto più delle nude cifre degli anni di carcere. È una sentenza che, premiando l'enorme lavoro della procura e della polizia ferroviaria, stabilisce un concorso di responsabilità nella catastrofe di Viareggio e non si limita a fulminare il tecnico delle officine Jungenthal di Hannover che nel novembre 2008 controllò l'asse di acciaio che poi si sarebbe spezzato a Viareggio e non vide chi era minato da una profonda crepa. È uno dei condannati, ma il tribunale ritiene che più di lui siano responsabili del disastro i vertici della multinazionale Gatixi, proprietaria delle cisterne adibite al trasporto di GPL, una delle quali si è schiantata a Viareggio sprigionando il gas. Dopo di loro, i responsabili delle officine Jungenthal, appunto, quelli della cima riparazione di Mantova, dove l'asse controllato ad Hannover fu montato sotto la cisterna poi deragliata, e infine i massimi responsabili di Trenitalia e Rete Ferroviaria Italiana. Ovviamente la sentenza si concentra soprattutto sulla figura, come dire, manageriale più importante, vale a dire Mauro Moretti. Racconta sempre Repubblica, pagina 5, che Moretti ha avuto una reazione confidata agli amici. Ed è questa, ovviamente si tratta di un retroscena, non è che è confermata dallo stesso in prima persona, ma l'ex patron di Rete Ferroviaria Italiana prima e di Ferrovie poi, ripensando alle reazioni che ebbe nei giorni e nei mesi dopo il disastro, avrebbe confessato agli amici questo: sì, forse le mie reazioni sono state troppo dure, ma di fronte a quella tragedia decisi di avere un atteggiamento molto forte per tenere insieme una società smarrita, incerta sul da farsi. D'altronde, racconta Marco Ruffolo su Repubblica in questo articolo, la durezza sembra essere una costante caratteriale nella vita, nella carriera di questo indecifrabile self-made man. Repubblica racconta, tra l'altro, con Lucio Cillis, che il governo a questo punto pensa a una exit strategy, nel senso che Moretti non si dimette da Leonardo Finmeccanica. Ma il governo pensa a una sorta di sostituzione, a una non riconferma. Anche Antonella Baccaro, a pagina 3 del Corriere della Sera, cerca di decifrare quali saranno le mosse di Mauro Moretti. Né decadenza né ineleggibilità. A rigore di legge, la sentenza di primo grado che ha condannato Moretti, attuale amministratore delegato e direttore generale di Leonardo, a 7 anni di carcere, non sembra destinata a produrre effetti sulla sua permanenza ai vertici del gruppo dell'aerospazio e della difesa. Secondo il testo unico in materia di intermediazione finanziaria, solo le sentenze irrevocabili ledono i requisiti di onorabilità pregiudicando lo svolgimento delle funzioni di amministrazione e direzione. Né vale per le società quotate, come Leonardo, che non lo abbiano deliberatamente adottato il regolamento etico emanato nel 2013 dall'allora ministro del Tesoro Saccomanni, che considera una condanna in primo grado per taluni reati causa di ineleggibilità e decadenza. Certo, messo da parte il diritto, che non è tutto, ci sono le ragioni di opportunità che possono indurre un passo indietro nell'immediato o nel futuro, ma stando alle prime mosse poste in essere da Moretti, l'amministratore delegato non ritiene di averne, pensando invece che meriti una riflessione la modalità della condanna. E dunque pare che al momento non ci sia una mossa da parte sua di opportunità di mettersi. Ricordiamo che è una sentenza di primo grado, ricordiamo che c'è anche la possibilità della prescrizione che possa intervenire e poi appunto c'è un appello e quindi le sentenze si dovrebbero commentare alla fine. In tutto questo voglio saltare in prima pagina sulla Stampa, l'ho tenuta da parte perché, signori, ci sono non buone notizie per l'Italia che arrivano dall'Europa, ma non sono quelle correzioni di conti che ci chiede l'Europa, i 3,4 miliardi. Qui Marco Zatterin racconta in prima pagina che c'è un'altra multa, un'altra spadona di Damocle che incombe su tutti noi. Intanto incombe su tutti noi perché è lo smog. Lo smog che non dà tregua, c'è gente ormai che fa la danza della pioggia, soprattutto al nord. Quant'è che dicevano a Milano non so da quanti giorni non piove, da 2 mesi praticamente. e l'acqua dovrebbe un po' pulire lo smog. Smog che non dà tregua. E guardate il titolo di prima pagina della Stampa. Lo smog non dà tregua e adesso l'Italia rischia una maxi multa dall'Unione Europea. Ha già un nome in codice, racconta la Stampa. La chiamano la madre di tutte le sanzioni. È stimata in diverse centinaia di milioni, potenzialmente fino a 1 miliardo di euro di multa da parte dell'Unione Europea. L'Italia rischia questo per la continua violazione delle norme sulla qualità dell'aria. L'Unione Europea ha rilanciato 2 procedure. Quando arriverà alla fine di questo iter, dover pagare la multa sembrerà però la migliore delle peggiori notizie. Potrà parere quasi un'inezia rispetto al pedaggio di vite umane imposto dalle polveri sottili, ai 66.000 morti prematuri attribuiti allo smog ogni anno, ai 695.000 anni di vita bruciati dall'ossigeno avariato e logorato dalla vita moderna. La Commissione europea sta per muoversi e fonti concordanti rivelano che per metà febbraio è atteso il parere motivato che inviterà Roma a correggere lo sforamento dei limiti minimi di biossido e azoto contenuti nell'atmosfera. E poi per marzo, secondo la tabella di marcia, c'è in canna un secondo parere e l'Italia, che è in mora da anni, rischia 1 miliardo di euro di sanzioni. E allè. Quindi, se tanto mi da tanto, i 3,4 miliardi che ci chiede l'Europa sono già diventati 4,4, così, almeno secondo le anticipazioni della Stampa. No, non portiamoci troppo oltre, poi sono due cose diverse, però questo è. Va bene, signori, volete vincere gli ultimi 2 biglietti per Platone, la caverna dell'informazione, che domenica sera sarà al Teatro Manzoni di Milano? Eccolo qua. Allora vi dico la notizia per la quale dovrete mandarci un titolo efficace, bello, divertente, perfetto, al 349-238-6666. Occhio, perché oggi vi porto in Giappone. La notizia è sul Corriere della Sera. In Giappone si lavora troppo. Ma troppo, troppo, troppo. Ma tanto, tanto, tanto. C'è proprio anche un dramma, vero? Di persone che perdono la vita per il troppo lavoro. Si chiama karoshi. Questa gente che si suicida per il troppo lavoro. Gente che ha infarti per il troppo lavoro. Karoshi. E allora i giapponesi, il governo vuole correre ai ripari. Giapponesi, lavorate troppo. Il governo deve correre ai ripari. Stress e suicidi per i carichi eccessivi. Allo studio, un tetto agli straordinari, racconta il Corriere della Sera con Guido Santevecchi, che c'è questo fenomeno del karoshi, cioè la morte per sfinimento. Dopo l'ennesimo caso in Giappone, il governo ha messo mano a una riforma che prevede un tetto mensile medio di straordinari a 60 ore, con eccezione di 100 ore per i mesi di grande domanda della produzione. Cioè 100 ore di straordinari mensili o 60 di straordinari mensili. Allora mandateci un titolo sul lavoro, sui giapponesi che lavorano troppo. Ripeto, al 349-238-6666, diteci anche come vi chiamate, da dove spedite il titolo, mandatelo lì, che oggi arrivano gli ultimi 2 biglietti per Platone. Ma ecco invece l'articolo che mi fa più della giornata. Salto su Libero, Claudia Osmetti racconta, pagina 15, per la verità riprende un articolo già apparso ieri dal Corriere del Veneto, l'ennesima storia di burocrazia italiana. Ricordate il tornado che flagellò la Riviera del Brenta nel luglio 2015? Furono raccolti allora 450.000 euro. Ebbene, questi 450.000 euro per liti tra enti, rallentamenti, scartoffie, burocrazie, firme, i soldi non sono mai stati spesi. Un primo stop arriva dalla riforma del sistema protezione civile voluto da Monti nel 2012, manciata di regolamenti governativi che limitano la possibilità di spendere le cifre raccolte tramite gli SMS raccolti al 45500. Certo, il motivo è evitare scandali, ma nella pratica le cose si complicano. Poi arriva un secondo, altro motivo. Per metter mano a quei fondi serve il consenso del Comitato dei Garanti. morale, per quasi un anno non si muove un euro. Infatti l'assise in questione, cioè il Comitato dei Garanti, si riunisce a Roma appena 4 mesi fa e l'unico a presentare un progetto di ricostruzione è un unico comune. Il calvario però non è solo che all'inizio. Per coprire interamente i costi del rifacimento servirebbero ben oltre le cifre raccimolate. Risultato? È tutto ancora bloccato, i 450.000 euro raccolti con soldi dati da voi, cari cittadini, da voi. La burocrazia blocca la beneficenza degli SMS. Agghiacciante quello che dicono, è una vergogna. State ascoltando un programma offerto da centrosoftware.com, il miglior ERP per il successo della tua impresa. Alessandro Milan è il belinone dell'informazione. Eccoci alle 7:35 minuti. Allora, c'è da dire che questa lettera è pronta, la lettera italiana all'Europa, e oggi la risposta italiana messa a punto. Marco Rogare e Gianni Trovati raccontano la vicenda, la sapete, se non la sapete è quella solita. L'Europa ci chiede una correzione dei conti di 3,4 miliardi di euro, 0,2% del PIL. Cosa risponderemo? Azioni aggiuntive di lotta all'evasione e all'erosione fiscale per irrobustire la colonna delle entrate, nuovi passi nel contenimento della spesa pubblica per assottigliare quella delle uscite. Questo, secondo il Sole 24 Ore, sono i due binari su cui viaggiano le prospettive di finanza pubblica indicate dal governo alla risposta alla richiesta di correzione dell'Unione Europea. Dunque niente manovra correttiva emergenziale, ma neanche uno scontro frontale con la Commissione europea. La risposta italiana punta in particolare su due mosse: il richiamo ai fattori rilevanti che giustificano lo scostamento dagli obiettivi del patto e le spese aggiuntive per il terremoto. Questo sul Sole. Tra l'altro racconta Repubblica invece che il governo ha allo studio un'altra idea. Roberto Petrini, pagina 8. L'idea è questa: quella di creare una zona franca fiscale per i 134 comuni coinvolti dal sisma che ha colpito il centro Italia. È la novità del decreto atteso per domani, annunciato dal ministro delle Infrastrutture Delrio, è destinato al rafforzamento delle misure di emergenza delle aree investite dal terremoto. Una misura allo studio nelle ultime ore che sarà presa subito dopo l'invio della lettera a Bruxelles. Il provvedimento è destinato a 67.000 imprese industriali, artigiane e commerciali in grave difficoltà dopo i tragici eventi nelle ultime settimane. Dunque il decreto dovrebbe prevedere una sorta di borsellino fiscale a disposizione delle imprese, un credito d'imposta che consentirà di scontare IVA, IRPEF, IRAP e IRES. La misura va oltre la semplice sospensione del pagamento delle tasse. La sospensione prevede infatti che le tasse continuino a correre, ma che dovranno essere versate da parte delle imprese nei comuni coinvolti. Al contrario, il decreto atteso per domani prevede una sorta di zona franca sul modello adottato in Emilia. Le aziende collocate nei comuni potranno beneficiare del bonus a prescindere dall'entità del danno subito. E questa forse è la novità che arriverà domani. Questo per quel che riguarda l'Europa. E poi se guardiamo all'Italia c'è la politica. La politica, ci si interroga intanto su quando si andrà a votare, come si andrà a votare, perché si andrà a votare. Avremo ospite Michele Emiliano oggi, presidente della Regione Puglia, che si sta muovendo molto, è a capo, secondo alcuni, di quel movimentismo nel PD. Che vedrebbe D'Alema cercare di coalizzare gli anti-Renzi e chissà mettere alla guida un Emiliano. Comunque, intanto la mossa politica sulla legge elettorale c'è stata, come raccontano tutti i giornali, e cioè un asse PD, Movimento 5 Stelle e Lega, per fare che cosa? Per calendarizzare al 27 febbraio l'approdo in aula della riforma elettorale, ma una condizione, come racconta Barbara Fiammeri sul Sole 24 Ore a pagina 10, ove la commissione abbia concluso i lavori. Di fatto significa che se entro quella data non si sarà arrivati a un accordo su un testo condiviso, cioè la data è il 27 febbraio, la legge elettorale verrà cancellata dal calendario dell'aula e si andrà diritti al voto con gli attuali sistemi usciti dalla consulta per la Camera e il Senato. Dunque questa è la mossa. Entro un mese o se no si va a votare con le attuali leggi elettorali diverse, una per la Camera, una per il Senato. È una mossa che spinge al voto e quindi è una mossa voluta da Renzi, voluta dal Movimento 5 Stelle, appunto voluta dalla Lega. È una mossa per accelerare e andare a votare a giugno. Anche il Corriere, eccolo qui, Camera, asse per il voto, PD, Movimento 5 Stelle e Lega. Renzi dice così non scattano i vitalizi. Sapete che i vitalizi scattano a settembre. Tra l'altro su Renzi c'è oggi un giudizio, un'intervista abbastanza dura a Enrico Mentana, direttore del TG della Sette, intervistato da Candida Morvillo per il Corriere della Sera. Enrico Mentana dice peste corna di Renzi, almeno lo definisce un bullo. Renzi bullo, non fa più sognare. L'arrivo di Gentiloni ha un effetto bar. Dal punto di vista politico, sentite cosa dice Mentana, Renzi è geneticamente bullo, ma non più di Trump, Putin, Erdogan. Oggi sei bullo se devi comandare in uno scenario nuovo. Lo sei se hai scalato il partito dei dinosauri, hai voglia di comandare coscienza di te, due connotati della leadership. C'è però un però, appunto. E qual è? La leadership passa anche attraverso la capacità che Renzi non ha più di raccontare un progetto, di far sognare. Ma in definitiva sta dicendo Mentana che Renzi è finito? Beh, tutto quello che ha costruito viene smontato pezzo a pezzo. In questo momento, agli occhi dei suoi, Renzi è un candidato vincente? Paradossalmente, perdere le primarie contro Bersani è stata la sua grande vittoria. Lì il futuro era suo. Ora non esprime ricette che guardano avanti. E questo è il giudizio molto duro di Enrico Mentana. In tutto questo bisogna capire che cosa si muove nella politica. Da D'Alema, De Magistris, Repubblica racconta per esempio di questo listone anti-Matteo, no? D'Alema, De Magistris, Nichi Vendola, Emiliano, insomma... Tutti che si muovono. Sembra ormai chiaro che tra poco si andrà a votare. L'America, Trump. Ci si interroga su Trump. Intanto i sondaggi che dicono che gli americani in realtà approvano questa linea e lo stop di Trump agli immigrati. Guardate qui, il Corriere della Sera. L'America visibile, quella delle proteste negli aeroporti, è in rivolta. Ma esiste anche un'America nascosta, profonda, che continua a sorprendere. La Quinnipiac University ha condotto un sondaggio pubblicato due giorni fa, secondo il quale il 48% dei cittadini statunitensi dice è giusto sospendere l'immigrazione da regioni a rischio terrorismo, anche se ciò significa respingere i profughi. Mentre il 42% è contrario, il restante 10% non si esprime. Dunque, secondo questo sondaggio, il 48% degli americani riflette uno stato d'animo che è retroterra sociale dell'ordine esecutivo firmato da Trump, che sta con il presidente americano, che ha fatto anche delle azioni molto dure di contrasto nei confronti della Germania, nei confronti dell'euro, dicendo Berlino sfrutta il deprezzamento dell'euro. Oggi Beda Romano racconta questa guerra commerciale tra America e Europa, davvero è un mondo nuovo al quale dobbiamo abituarci. E il presidente del Consiglio europeo Donald Tusk, ex premier polacco, ha preso le distanze da Donald Trump dicendo che le sue sono dichiarazioni inquietanti, parlando di una Russia aggressiva, di una Cina assertiva, insomma un mondo che cambia e che oggi il Sole 24 Ore racconta bene. Tra l'altro su Trump, ma qui faccio un appello, caro Mauro Meazza, non spoilerarmela, perché dopo la leggerò, l'intervista di Claudio Gatti, straordinaria, uno dei migliori amici l'italiano Lombardi, che è amico di Donald Trump, dopo la leggerò, ma intanto sul Sole già tante cose ci sono, caro Mauro. Tanto anche complimenti per la grandissima prestazione di ieri sera. Ti ringrazio molto. A questo proposito, guarda, vorrei inviare un saluto particolare a Matilde. Sì. Matilde capirà, fermiamoci qui per il momento. Va bene. Invece siamo ai messaggi massonici. Sì, messaggi in codice. Senti, ho 3 biglietti per Telefisco, sì, per te, per Pizza. Li hai comprati anche? Naturalmente Lorenzo, sì. Ma no, è gratis la partecipazione. Invece hai Telefisco. Comprato i biglietti per Platone? Dopo... Quello per forza, se no non mi fate entrare. Non so. E ho entrato a comprare 6 biglietti per tutto il gruppo, quindi va bene. Porta anche compra anche per gli amici. Compra in amici. Va bene, ne comprerò un altro po' se ne sono rimasti, perché mi sembra che... Va bene, senti, rapidamente, sì, ti consiglierei di leggere anche Moria Longo sugli NPL. Io non so se ti è chiarissimo questa questione degli NPL, i crediti deteriorati nelle banche italiane. Ecco, se così non fosse, può capitare, leggi Moria Longo, perché oggi molto chiaro, comincia in pagina 1, poi gira nella seconda pagina. Torniamo sulla questione fisco e bilanci, poi ne parliamo domani a Telefisco con calma, tu ed io naturalmente siamo disponibili a spiegarti tutto, caro Alessandro, ma qui il problema è che c'è 1 milione di imprese che non sa esattamente come calcolare le tasse e non è una buona notizia, anche se potrebbe sembrarlo, non lo è per niente. Della lettera a Bruxelles già hai detto, ti voglio segnalare nelle pagine di finanza che tu leggerai avidamente, proprio nella prima pagina, ecco, che la cessione del Milan ha un po' di problemi. Però 320 milioni devono arrivare, forse arrivano da Hong Kong, vediamo un po'. Il nostro Alberto Forchielli è tipo 1 anno e mezzo che ha avanzato dei leggerissimi dubbi su questa vicenda, ma vediamo. Diciamo che è un pochino tortuosa, ecco. Poi, proprio nell'imminenza di Telefisco, alla vigilia di Telefisco, naturalmente parliamo del modello definitivo per le persone fisiche. Una volta si chiamava modello unico, adesso non più, non ti sbagliare. Guarda che ci sono nuovi crediti di imposta, ci sono anche delle novità per gli incapienti in condominio. Ci possono essere gli incapienti in condominio, non so se nel tuo condominio ce ne sono, ma adesso possono cedere anche un po' del loro bonus alle aziende. Come si fa? Leggi religiosamente norme e tributi e lo saprai. Naturalmente tutto quello che non ti è chiaro domani, caro Alessandro, ti verrà spiegato a Telefisco. E per il momento, traffico! Breda, i portoni più belli d'Italia, sicuri e installati in un giorno. Bredaportoni.com vi presenta Alessandro Milan, il Gigio Donnarumma dell'informazione. Vedremo. Allora, intanto, cari ascoltatori, c'è da dire che questa intervista di Claudio Gatti, che è uno dei migliori giornalisti d'inchiesta che abbiamo, intervista per il Sole 24 Ore Guido George Lombardi, è uno dei migliori amici di Donald Trump italiano. Ma l'intervista è spettacolare, perché Claudio Gatti vuol sapere quando ha conosciuto, quando si sono conosciuti, Guido Lombardi lo racconta, poi a un certo punto inizia a raccontare e a chiedere a Guido Lombardi di alcune sue attività, e infatti il titolo dell'intervista è "Ha aiutato Trump in campagna elettorale, ma il suo passato e le sue competenze sono opache". E vedete, è un crescendo questa intervista pubblicata a pagina 18 del Sole. Chiede Claudio Gatti: ma lei ha fatto mai politica? No, anzi, se hai fatto politica, nel mio libro scrivo che semmai sei squalificato in partenza. Vabbè, ma lei ha rapporti con altri politici? Ma con esponenti della Brexit, con il Freedom Party in Austria. Bene, il suo business è invece quello immobiliare. Lei ha 6 società. Sì, ci dica qualcosa. E no, questo non fa parte dell'intervista. Non ho intenzione di dare informazioni al pubblico. Vabbè, ho letto che lei è direttore esecutivo della North Atlantic League, me ne può parlare, è una no profit fatta tanti anni fa con amici. E che ha fatto? Niente. Abbiamo fatto un piccolo blog, articoli, ma non è andata da nessuna parte. Ah, lei è anche membro dell'Institute for Global Ethics, cosa fa? Bah, è un istituto che esisteva tanti anni fa. Non so se sia ancora aperto. È aperto, l'ho chiamato. Dice Gatti, mi hanno detto che non hanno membri e che non sanno niente di lei. Ah, come le ho detto, è una cosa vecchia di 15 anni. Sempre nella sua biografia online, lei viene descritto come uno dei leader del Tea Party italiano. Cos'è? Bah, mi dispiace, ma il fatto è che i siti sono vecchi, dovrei aggiornarli. Sì, ma cos'è sto Tea Party? Ma lo avevamo fatto, mi pare, nel 2006. Ma nel 2006 non esisteva neppure in America, mi scusi. Ah, allora forse dal 2008. Ma di nuovo, è una cosa che volevamo fare, ma non è andata da nessuna parte. Bene. Lei è anche stato direttore esecutivo dell'International Council of Economic Development. Cos'è? Era un'associazione con fini essenzialmente culturali. volevamo per un breve periodo, avevamo l'indirizzo all'Empire State Building, poi si sono spostati e non li ho più seguiti. Un'ennesima associazione di cui lei risulta direttore è l'Help Africa Association. Cos'è? Ah, con loro non ho praticamente niente a che fare. Lei è stato anche vicepresidente del Senato accademico della Libera e Privata Università Internazionale ISFOA. ISFOA? Chi la conosce? Risponde Lombardi. Ma scusi, il sito di ISFOA dice che lei è amico personale del magnifico rettore Stefano Masullo. Bah, conosco Stefano Masullo, ma so che fa il direttore di una rivista di golf. Ma lei è mai stato vicepresidente del Senato accademico di ISFOA, sì o no? Se mi hanno messo lì. Ma lo riporta al sito di ISFOA, non ne ero al corrente. Quindi con lei, con ISFOA, non ha nulla a che fare? No. E a questo punto l'intervista diventa sempre più surreale. Cioè, voi capite che Claudio Gatti chiede conto di tutte le cariche che ha Guido Lombardi, e questo Guido Lombardi dice che non sa nulla, prende le distanze da tutto. E infatti a un certo punto l'intervista si fa un po' nervosa. Non devo spiegare come sono arrivato a essere un personaggio, non sono un personaggio pubblico, non ho alcuna necessità di spiegare e enunciare tutto quello che posso avere o non avere fatto. Il Sole avrebbe potuto scrivere un'intervista interessante su quello che sarà l'economia italiana, il suo futuro, le monete. La dovrò fare con qualcun altro. Così Lombardi, che però insomma, Claudio Gatti gli chiede conto di tutte le sue cariche, e tutte queste cariche praticamente Lombardi dice non ne so nulla. E a quel punto il dubbio viene a dire: ma chi è questo Guido Lombardi? Qual è il suo background? Qual è il suo passato? In ogni caso, torniamo in Italia. Oggi La Verità mette in prima pagina una notizia che riguarda Sanremo. La Verità ha tirato fuori la questione del cachet di 650.000 euro di Carlo Conti. Oggi addirittura il titolo è Tangenti al Festival. Carlo Piano racconta che lo scenografo, che per la terza volta di fila firma il Festival di Sanremo, si chiama Riccardo Bocchini, è indagato dalla Procura di Roma per corruzione, perché è lui che realizza le scenografie di tutti i programmi di Carlo Conti, come Tale quale show, Affari tuoi, Si può fare, Raccomandati, I migliori anni e così via. Secondo due imprenditori arrestati, due imprenditori che rifornivano la RAI di luci, scenografie, regie mobili, dichiarano, secondo questi imprenditori e secondo le loro dichiarazioni, hanno detto di avergli dato mazzette perché Bocchini inserisse i loro servizi negli allestimenti da lui realizzati. Questa ovviamente è l'accusa da provare, ma La Verità mette con ampio risalto questa notizia. Stecche a Sanremo, avviso di garanzia lo scenografo preferito di Conti, pagina 8 e 9. Una notizia invece di cronaca che io davvero non so da giorni come spiegare ai miei due figli, Angelica e Mattia: si riapre la caccia al lupo. Ormai ci siamo, domani alla conferenza Stato-Regioni c'è il piano che prevede l'abbattimento dei lupi. Il ministro dell'ambiente Galletti dice no ai populismi. Vabbè, niente, adesso anche quando si... ormai quando uno deve fare una critica dice è populismo, al limite è lupismo, se proprio uno vuole, più che populismo, al limite è lupismo, ecco ministro, lupismo potremmo accettarlo, ma no ai populismi. Staremo a vedere la decisione delle regioni. Però il WWF protesta, lo sciopero della fame dei radicali, abbiamo avuto anche Carla Rocchi, presidente nazionale dell'ENPA, nostra cara amica, che ha detto effettivamente fai bene, ma ha detto non, è una di quelle cose che non si può spiegare ai bambini. Come faccio a dire? Cioè, già io non è che sono contro la caccia, come faccio a dire Mattia, Angelica, aprono la caccia ai lupi? Dice, ma il ministro Lupi? No, il ministro Lupi non c'entra, ex ministro, no. I lupi, sai quelli, i lupi, si potranno abbattere, i lupi. Perché il lupo così è visto un po' come il limite da non superare, insomma, quell'animale. Vabbè, domani pare che ci sia questa decisione. Si riapre la caccia ai lupi. È lupismo, populismo, secondo il ministro all'ambiente Galletti, criticare. Va bene, mezza pagina invece su Libero, e siamo alla carta costa, l'articolo più inutile che ha scovato sui giornali, la polemica Mediaset e il bisticcio sull'Isola dei Famosi, che è stata spostata credo per maltempo e quindi è stata andata in onda il giorno dopo, e questo ha fatto saltare una puntata di Matrix e il conduttore di Matrix Nicola Porro si è arrabbiato, e allora c'è il bisticcio tra Porro e la Marcuzzi con lamentele su Facebook perché che uno ha detto che, l'altro ha risposto di che, e qui Nanni su. Ma chi se ne frega!